mia favorita di un ricchissimo signore. Oh mia piccola Rosita, non cercare lo splendore. Chi di gemme ha il seno adorno e vive sol di vanità, nel breve incanto vive un giorno, l'illusione poi vorrà. Chiudi gli occhi, Rosita, in un sogno d'amore, è più dolce la vita, così stretta al mio cuore. La tua bocca mi invita, ogni bacio ha il profumo di un fior. Chiudi gli occhi, Rosita, solo questo è l'amore. Mi invita, se mi baci, mi piaci di più.